trovarti lì. Perché ogni giorno eri in vena di crescere un po' di più. Com'era bello, Luciana, regalarti un mio CD. E se a qualcuno non piaceva, tu cercavi e trovavi il bello, perché sei così, perché tu sei così. E nella vita son sicuro riuscirai a trasformare quel che sembra triste e scuro in un fiore tra cielo e mare. Conservare questo ricordo e in una canzone un po' strana buttarlo giù, così non lo perdo.